Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Disoccupazione nuovo picco dal 77, siamo oltre il 13%, un dato sconvolgente, dice il presidente del Consiglio Renzi appena arrivato a Londra in visita ufficiale. La riforma del Senato continua a dividere il Partito Democratico, Forza Italia contraria ai 21 senatori nominati dal Colle, ospite tra poco il ministro delle riforme Boschi. Draghi parla di una ripresa modesta in Europa, intanto Eurogruppo riunito ad Atene, via libera, nuovi aiuti per oltre 8 miliardi. Sarebbe morto lo storico francese Jacques Le Goff, forse il più grande tra gli studiosi del Medioevo, lo scrive il sito di Le Monde. Una bella sorpresa, finalmente, dai test OCSE e PISA sugli studenti italiani ai primi posti in Europa e nel mondo nella risoluzione dei problemi pratici. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Parleremo tra un attimo dei dati sulla disoccupazione. Prima di tutto veniamo al tema delle riforme che continuano a dividere il mondo politico, si divide il Partito Democratico al suo interno e ci sono dei distinguo anche da Forza Italia. Il punto con Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Simone. Anche stamattina da Londra il presidente del Consiglio Renzi, proprio commentando i dati sulla disoccupazione, ha ribadito la necessità di accelerare sulle riforme per l'economia italiana. Ci sono segnali di ripresa che però non sono sufficienti e per questo c'è bisogno di correre. È un'esigenza che non nasce da un bisogno personale ma dalla necessità di dare risposte concrete al paese, ha detto il Premier, ma nonostante la sua fretta sembra partire in salita il cammino del disegno di legge costituzionale che è stato approvato ieri dal governo, un provvedimento, lo ricordiamo, che prevede la riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione. Qualche malumore, lo dicevi nei titoli, c'è anche nello stesso partito di Renzi, il PD, ma a frenare oggi è soprattutto Forza Italia. Renzi fa demagogia e populismo sulla pelle degli italiani, attacca Brunetta. Noi appoggeremo una riforma quando la vedremo, nel senso che discuteremo punto su punto, spiega il capogruppo azzurro alla Camera, che boccia in particolare due delle novità previste dal provvedimento approvato ieri, cioè la nomina di 21 senatori da parte del Presidente della Repubblica e la presenza dei rappresentanti dei comuni nel Senato delle Autonomie. Per ora è tutto, Simone. E come si diceva, il Presidente del Consiglio Renzi ha parlato anche di disoccupazione, dei dati arrivati questa mattina, lo ha fatto da Londra dove è in visita oggi. Parleremo tra poco dell'agenda che aspetta Renzi e di che cosa ci si attende da questa visita con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che è già in linea con noi, ma prima facciamo il punto sui dati, sulla disoccupazione e sulle parole di Renzi in merito. Vincenzo Miglietta, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Dati che illustrano un mondo del lavoro come mai in difficoltà. A febbraio il tasso di disoccupazione infatti al 13%, un livello mai raggiunto dal 77 in numeri assoluti. Tutto ciò si traduce con una platea di disoccupati che supera la soglia dei 3,3 milioni, particolarmente colpiti i giovani. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni a febbraio è pari al 42,3%, comunque in diminuzione di 0,1 punti percentuali su gennaio, quando aveva toccato il picco, ma in aumento di 3,6 punti su base annua. Quanto agli occupati, sempre l'Istat segnala che in un anno se ne sono persi 365.000, un quadro questo dunque decisamente preoccupante. Di dato sconvolgente parla il Presidente del Consiglio Renzi, ascoltiamo allora questo passaggio. Beh, è un dato che purtroppo sta in linea a quello che sta accadendo da diversi mesi, è un dato sconvolgente. Vedevo venendo qua i dati della disoccupazione, in questo caso complessiva, di inglesi e italiani negli ultimi 3 anni, vedevo nelle graduatorie comparate 2011, 12 e 13, sostanzialmente partivamo dallo stesso livello, 8%, loro sono al 7,6, noi siamo al 12 e rotti, e sulla disoccupazione giovanile noi partivamo 2 anni fa dal 29, loro dal 21, loro sono ancora al 21, noi siamo al 42,3, se ho visto bene i dati dell'Istat di oggi, con 365.000 posti in meno in un anno, che anche simbolicamente 365.000 per 365 giorni sono 1.000 posti al giorno che perdiamo, quindi è evidente che questo è il problema. Questo è il problema, ossia il lavoro che manca, dice Renzi, da qui la volontà del governo di chiudere in tempi rapidi la conversione del decreto lavoro, entro venerdì gli emendamenti al testo in commissione, quanto al Jobs Act, al contratto, a tutele crescenti, la delega al vaglio del Quirinale dovrebbe arrivare in settimana al Senato. E da Roma è tutto. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta, queste dunque le parole di Renzi sull'Italia, proprio arrivato a Londra, e vogliamo fare un punto sull'agenda di questa visita e che cosa ci si attende appunto con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla capitale britannica. Leonardo, eccoci, allora, che cosa dobbiamo aspettarci della giornata di oggi? Buongiorno a voi, ma dobbiamo aspettare, innanzitutto Renzi, quando ha fatto queste dichiarazioni sulla disoccupazione, stava entrando in ambasciata italiana dove ha incontrato degli imprenditori italiani che lo hanno visto appunto per un incontro questa mattina, prima di andare a Downing Street dal Premier David Cameron, che lo aspetta qui. Io sono davanti a Downing Street fra un'ora circa per un colloquio che durerà circa un'ora e mezza. Il tema centrale saranno ovviamente le questioni europee. Il completamento del mercato unico, per esempio, è uno dei punti in cui italiani e inglesi trovano aree di contatto. Entrambi i paesi da sempre sono quelli che spingono di più per il completamento del single market. Però gli inglesi hanno anche una loro agenda, che è quella per poter uscire in modo elegante dall'impasse in cui Cameron si è infilato con la questione del referendum sull'addio dall'Unione Europea. Molto brevemente, è previsto anche un incontro con gli investitori, come classicamente avviene quando si va in visita a Londra o a New York? Non un classico come accadeva come accade con Monti, c'è una specie di roadshow dell'Italia al London Stock Exchange dove incontri i fondi di investimento, i grandi investitori. No, in questo caso non c'è. Anche se su questa visita ci sono ancora dei punti di incertezza, per esempio dovrebbe vedere Tony Blair, è quasi sicuro, però non c'è la certezza assoluta perché Blair ieri era in Egitto. Quindi ci sono ancora dei punti, di relativa incertezza. Bene. Vedrà bene. Certamente degli imprenditori, ma non sarà il roadshow al quale ci eravamo abituati. Al quale eravamo abituati. Io ti ringrazio, Leonardo Maisano, che poi ci aggiornerai naturalmente nel corso della giornata. Noi, a proposito di Europa, ci spostiamo adesso ad Atene, dove è riunito l'Eurogruppo che ha varato nuovi aiuti per la Grecia. Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore, così? Sì, esattamente, c'è questo via libera dopo sei mesi di duro braccio di ferro e quindi il clima in questa riunione dei ministri finanziari europei ad Atene è improntata all'ottimismo. Arriverà questo prestito ulteriore di 8 miliardi di euro e domenica la Grecia ha approvato con difficoltà, con un solo voto di maggioranza, il pacchetto di riforme sulle liberalizzazioni e la ricapitalizzazione delle banche, con la possibilità di vendere a un prezzo anche più basso di quello acquistato dal fondo statale, un punto molto controverso, al punto che l'ex premier socialista Giorgio Papandreou ha votato contro. Ma la situazione è che Atene sta a un surplus primario di 2,4 miliardi, ma nel 2005 si prevede che mancheranno 2 miliardi e allora bisognerà fare un terzo salvataggio. Come? Per ora nessuno si sbilancia, prima ci sono le elezioni europee dove il partito di governo Nuova Democrazia potrebbe essere addirittura superato dalla coalizione di sinistra Siriza, che vuole restare sì nell'euro ma ridiscutere i termini del salvataggio proponendo una moratoria nel pagamento degli interessi. Inoltre c'è un nuovo partito che si prevede potrebbe raggiungere il 10%, Topotami, il fiume che non si proclama né di destra né di sinistra, un nuovo entrato che potrebbe però rendere molto più fragile la coalizione, rendere ingovernabile il paese. Ecco perché l'Ecofin è venuto qui ad Atene per scommettere sulla ripresa che l'anno prossimo dovrebbe toccare il 3%, più dell'Italia, e c'è chi prevede che addirittura tra prima di Pasqua Atene tornerà con un bond sul mercato da 2 miliardi a un tasso del 6% per chiudere quel cerchio iniziato 4 anni fa che aveva fatto tremare l'euro. Grazie, grazie al nostro Vittorio Darold. Noi restiamo all'estero e ci spostiamo, andiamo in Siria, perché abbiamo notato che in queste settimane l'attenzione sulla Siria è scesa. Abbiamo deciso di riaccendere i riflettori sulla situazione. Non occupa più le prime pagine dei giornali, nonostante si continui a combattere, le vittime siano arrivate a 140.000, mentre per le Filippine un consorzio di ONG italiano aveva raccolto oltre 400.000 euro. Per la Siria sono stati raccolti appena 92.000 euro. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Lucio Melandri, che è capo delle emergenze UNICEF in Giordania, partendo proprio dalla situazione a Za'atar, il campo profughi giordano al confine con la Siria. Stiamo parlando del campo di Za'atar, dove circa 100.000 rifugiati vivono. Più della metà di queste persone che ho citato sono bambini al di sotto dei 18 anni, ognuno dei quali ha una storia di violenza, di abbandono, di conflitto. Fuggiti di notte attraverso i bombardamenti, giunti in un paese che non conoscono e ad oggi si trovano in mezzo al deserto della Giordania, dove il sistema delle Nazioni Unite ha installato questi campi profughi. Sono sfruttati nel lavoro minorile, le bambine vengono vendute perché diventa una questione di reddito per la sopravvivenza delle famiglie. Abbiamo visto immagini terribili, l'infinita coda per il pane di qualche settimana fa nel campo profughi di Damasco, immagini di bambini gasati, di bambini profughi che scappano dalla Siria da soli. Nonostante questo però la Siria sembra non scaldare i cuori, almeno stando alle pagine dei giornali e anche alle raccolte fondi. Come mai? Si preferisce, come dire, dimenticare queste situazioni che comunque infastidiscono. Il problema è che non capiamo quanto queste situazioni abbiano un impatto reale anche su ognuno di noi. I profughi che ogni giorno arrivano in Italia, sempre più numerosi, arrivano da queste zone e non hanno alternative. Da una situazione che è uscita dai riflettori ad una che continua a rimanerci, ossia quella ucraina. Gazprom e l'Ucraina sono tornati alla normalità. Lo sconto sul gas concesso dal monopolio russo è durato solo un trimestre. Lo aveva portato a casa Viktor Yanukovych a dicembre, dopo aver rinunciato alla firma di un accordo di associazione alla UE, ma ora, ha confermato oggi Gazprom, i debiti accumulati da Kiev sulle forniture del 2013 e quelle dell'anno corrente non consentono l'ulteriore applicazione di una tariffa che era scesa da 400 a 268,5 dollari per 1000 metri cubi di gas. Per il secondo trimestre dell'anno il prezzo di Gazprom torna dunque a 385,5 dollari, più della media europea, lasciando all'Ucraina, che attende aiuti dalla comunità internazionale per salvare i conti pubblici, il compito di trovarsi fonti alternative di energia di fronte al braccio di ferro di Mosca. Nessun problema invece per la Crimea, che pure dipendeva da Kiev per l'85% della propria elettricità. Il ministro russo dell'energia Novak ha confermato oggi l'intenzione di far deviare verso la penisola, a spese di Gazprom, un braccio di South Stream, il gasdotto sottomarino che dovrebbe raggiungere l'Europa meridionale e l'Italia. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E ritorniamo al DDL di modifica della Costituzione per parlarvi di qualcosa che sta passando un po' sotto traccia, la vicenda del CNEL. Principe degli enti inutili, simbolo della burocrazia più dispendiosa, museo delle caratidi per la veneranda età dei suoi presidenti, questo è diventato nell'immaginario collettivo il CNEL, almeno per chi ha memoria di quest'organo di rilevanza costituzionale. Della sua attività infatti non è che vi sia grande traccia. In mezzo secolo il CNEL ha prodotto appena 96 pareri, una media di due l'anno, presentato 14 disegni di legge, mentre di leggi approvate in Parlamento su sua proposta non ne esiste alcuna. 91 sono i dipendenti, più 64 consiglieri e il presidente. 20 milioni di euro l'anno la spesa trasferita dallo Stato al CNEL, di cui 7 milioni per gli stipendi dei dipendenti, 2 milioni per i costi di gestione della sede e il resto per pagare le indennità di consiglieri e le consulenze esterne. Non una grande cifra per le casse dello Stato, rivendica il segretario generale del CNEL, Franco Massi. Sulla costosità del CNEL c'è da sfatare un falso grossolano. Allora, il CNEL è un organo che costa alla cittadina italiana 20 milioni di euro l'anno. A fronte di questi 20 milioni, nel triennio fra il 2008 e il 2010, di questi 20 sono stati spesi 18,2. Ogni anno si risparmiava più o meno 1 milione 8. Nel triennio successivo, cioè 2011-2013, Questa spesa effettiva annua è calata a 13,5 milioni di euro. Perché c'è stata un'opera di spending review all'interno di auto CNL. Spending review, molto prima di Cottarelli, molto prima di Bondi. Taglio delle consulenze, delle auto blu, eliminazione delle trasferte e quant'altro. Insomma, il CNL rivendica di aver portato avanti la spending review già prima di altri enti. Rimane però sempre il tema della sua utilità. Franco Massi risponde così. Il CNL nasce come luogo privilegiato per il dialogo sociale, che è quello che poi tende alla coesione sociale. Il fatto che ciò non si sia fatto bene nel corso degli ultimi anni non vuol dire che l'idea non sia buona. Contrario all'eliminazione del CLEN, anche i leader di CGL, CISL e UIL, alcuni dei quali tra l'altro siedono come consiglieri, percependo un'indennità di 25.000 euro lordi che però versano al sindacato. Luigi Angeletti, UIL. Noi abbiamo proposto al governo di mantenere un CNEL a costo zero. Consiglieri non pagati, ma poi comunque la produzione del CLEL è stata molto bassa in questi anni. Nonostante ciò, voi dite che deve rimanere in piedi quest'ente. Che un organismo di questo genere, così come avviene negli altri paesi, possa essere utile. Se torna allo spirito originario, cioè del luogo nel quale le parti sociali possono trovare dei punti di convergenza e fare delle proposte legislative al Parlamento. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Disoccupazione, nuovo picco dal 77, siamo oltre il 13%, un dato sconvolgente, dice il presidente del Consiglio Renzi. La riforma del Senato continua a dividere il Partito Democratico, intanto Forza Italia si dice contraria ai 21 senatori nominati dal Colle. Draghi parla di una ripresa modesta in Europa, intanto l'Eurogruppo riunito ad Atene dà il via libera ai nuovi aiuti per oltre 8 miliardi. Bella sorpresa finalmente dai test OCSE e PISA sugli studenti italiani, ne parleremo più avanti, siamo ai primi posti in Europa e nel mondo per la risoluzione dei problemi pratici. Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno. Da ministro, perché la prima volta c'era stata quando era nella segreteria con lo stesso ruolo sostanzialmente. Ce la farete a vincere le resistenze e il vostro progetto di riforma costituzionale uscirà indenne dalle Camere? Sono assolutamente fiduciosa sul percorso in Parlamento, quindi ce la faremo ad approvare la riforma della Costituzione, quindi trasformazione del Senato in Senato delle Autonomie, abolizione di CNEL, province, un nuovo titolo quinto. Ovviamente la proposta del governo subirà delle modifiche, dei miglioramenti nel dibattito parlamentare come avviene per tutti i provvedimenti. Alcuni punti fermi però per noi sono imprescindibili. Tra questi il fatto che il Senato non sia più eletto direttamente e che non ci siano indennità per i senatori. Questi sono i due punti fondamentali. Sì, ce ne sono altri due, sì. Perché sono diciamo più condivisi, sono il superamento del bicameralismo perfetto e poi un rapporto fiduciario solo con la Camera dei Deputati, per cui la Camera dei Deputati è l'unico ramo del Parlamento a votare la fiducia al governo. E su questi due mi sembra che non ci siano particolari problemi. C'è una maggiore condivisione. Non temete che il vostro stesso partito ve la fossi questa riforma? Assolutamente no, io sono molto ottimista perché nel nostro partito una scelta è già stata fatta su questa riforma. Noi abbiamo questo strumento bellissimo che sono le primarie, che servono anche per discutere, approfondire i temi, i programmi. Ci siamo presentati alle primarie di qualche mese fa con un programma scritto in cui avevamo detto che se avessimo vinto noi avremmo trasformato il Senato in un Senato delle autonomie, dove sarebbero stati sindaci e consiglieri regionali senza percepire indennità aggiuntive, avremmo superato il bicameralismo perfetto, eliminato le province, il CNEL, e il 70% degli elettori del PD ha scelto quel modello, ha scelto quella proposta di Senato. Lo abbiamo approfondito, discusso in tutti gli organismi del nostro partito, dai gruppi parlamentari alla segreteria, alla direzione, che ben due volte si è pronunciata con un voto ad ampia maggioranza su questo modello, quindi il nostro partito ha scelto e andremo avanti su questa strada. Ma cosa avete contro l'elezione dei membri del Senato? Non è un problema di avercela contro l'elezione. Noi riteniamo che il superamento del bicameralismo perfetto, cioè per intenderci, oggi noi lo stesso provvedimento, la stessa legge, la dobbiamo approvare nella stessa forma alla Camera e al Senato, il che porta spesso ad un ping pong tra le due Camere dello stesso provvedimento per mesi e mesi. Ed è stato uno dei motivi di rallentamento nell'azione proprio del governo, ma in generale della crescita di questo paese negli ultimi anni. Allora, se partiamo dal punto fermo che va superato il bicameralismo perfetto per rendere più semplice proprio lo Stato nella sua azione e per rendere anche più rapido tutto il processo decisionale, dobbiamo anche immaginare che il Senato abbia un ruolo e delle funzioni diverse da quelle che ha avuto fino ad oggi e quindi anche una composizione differente, diventa il rappresentante delle autonomie, di regioni e di sindaci. Senta, ma se poi alle Camere passasse un Senato elettivo, perché poi le Camere sono sovrane da questo punto di vista, che cosa fareste? Vi dimettereste in blocco? Allora, io credo che alle Camere non passerà il Senato elettivo. Ipotizziamo, va. Non credo che passerà, ma semplicemente perché al di là della proposta del governo, che è chiaramente forte, io sono assolutamente convinta di questa scelta, che è una scelta che porta, lo ripeto, una maggiore efficienza e un risparmio dei costi per lo Stato, non trascurabile, perché ovviamente non ci saranno le indennità dei senatori, vitalizi, eccetera. È una proposta che non ci siamo inventati l'altro ieri, ma che è stata oggetto di discussione e di approfondimento negli ultimi anni e che era anche la proposta a cui erano arrivati i saggi nella commissione che ha finito i propri lavori qualche mese fa. Quindi non è che stiamo facendo un attentato alla Costituzione, stiamo proponendo un modello diverso. Si può saltare su quello, è un punto fermo quella cosa dei 21 senatori nominati dal Colle, o quella può saltare, diciamo, con una certa serenità? È uno degli elementi che è rimesso al dibattito parlamentare. I punti cardine sono quattro, li ho ricordati prima. Quelli per noi sono eliminabili, sugli altri si discute, ci si confronta e nel dibattito parlamentare vedremo cosa decideranno le forze politiche. Ultima domanda, ritiene che ci siano nel suo partito, come dice qualcuno, dei conservatori che vi osteggiano, che osteggiano la vostra azione? Ci sono nel nostro, ma ci sono in tutti i partiti, anzi forse in misura più ampia in altri partiti, perché mi sembra che ci siano dei conservatori dello status quo e tra questi mi meraviglia che ci sia anche il Movimento 5 Stelle, sinceramente, che si propone come partito di cambiamento, di trasformazione, di rinnovamento e poi in realtà vuole che tutto resti così com'è e soprattutto parla tanto di riduzione dei costi della politica e in realtà quando c'è un'occasione per incidere sui costi e per migliorare l'efficienza dello Stato si tira indietro. Grazie a Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme, questa è la sua opinione, la ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Come sapete le opinioni le ospitiamo tutte, ieri abbiamo sentito Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle che è di altra idea. Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. La chiamiamo non per parlare di Partito Democratico in questo caso e questa volta, ma per parlare invece di vicende che riguardano la sua città, perché da oggi la metropolitana di Salerno, che era un'opera da lei fortemente voluta, sospende il servizio. L'ultima corsa è stata ieri alle 22:15. Perché? Perché la Regione Campania non ha inserito nel contratto di servizi con Trenitalia la metropolitana di Salerno, che è un pezzo della metropolitana regionale. Cioè, per un atto di, io ho detto con un termine forte ma appropriato, di delinquenza politica. Un atto di delinquenza politica da sì. Caldoro, quindi? Sì, sì. Molti sorrisini, molta cerimoniosità, ma la regione del nulla. Noi siamo ormai la regione che ha l'ultimo posto in Italia per il reddito pro capite, per la capacità di spesa dei fondi europei, però siamo i primi in Italia per disoccupazione. Però siamo tutti contenti e sorridiamo tutti quanti. E poi quando abbiamo una grande idea, che è quella della metropolitana regionale su ferro, che è l'unica cosa seria che dovremmo fare per la mobilità in questa regione, ci consentiamo di fare i politicanti anziché rispettare i cittadini. Senta, dopo questa accusa, poi noi a un certo punto Caldoro lo andremo a sentire, lei ha fatto le accuse anche più pesanti a Caldoro, ha parlato di un fondo personale suo? Sì, non un fondo personale, c'è un capitolo di spesa che fa capo direttamente alla presidenza della regione, anche se le spese le fanno ricadere sul fondo assegnato al settore attività economiche e produttive, ex capitolo 508 per essere precisi, così evitiamo chiacchiere al vento. Anno 2012 2.765.000 euro, così come ha costituito una struttura parallela che è una vergogna, che offende i dirigenti e i dipendenti della regione con persone interne e con convenzionati esterni, che è costata nel 2012 4.500.000 euro. Quindi, come vede, la cerimoniosità e i sorrisini poi nascondono questi comportamenti. Senta, Caldoro contrattacca, dice la colpa è del governo e vostra del comune. Caldoro ha detto una cialtronata, perché la regione ha cancellato una delibera del febbraio 2010 che inseriva la metropolitana di Salerno nel contratto di servizi con Trenitalia. Appena si sono insediati loro hanno cancellato quella delibera. L'accordo firmato a Roma non più di 6 mesi fa prevedeva che la regione inserisse la nostra rete nel contratto di servizi con Trenitalia, per cui la Regione Campania riceve dallo Stato italiano 550 milioni di euro, non è che ci faccia un regalo, e 150 li utilizza per il contratto di servizi. Allora, sono tutte stupidaggini. Che cosa vorrebbero fare? Strumentalizzare la nostra metropolitana per farsi dare altri soldi dallo Stato. Il Ministero gli ha spiegato che c'è una legge dello Stato per cui non possono coprire come Ministero queste spese per le gestioni di trasporto locale. È talmente chiaro, guardi, non c'è da perdere tempo. La ringrazio, grazie a Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, per essere stato con noi. Naturalmente cercheremo Caldoro nei prossimi giorni per rispondere, come è corretto che sia, come sempre facciamo in questi casi. Altra vicenda di un'infrastruttura molto molto discussa è la Pedemontana. Gli aggiornamenti. Alla fine le risposte attese non sono arrivate né dalle banche né dal governo, e se nulla cambia Pedemontana si ferma dal 9 aprile rischiando di coinvolgere i collegamenti per Expo, in particolare la cosiddetta variante. Ieri il consiglio di amministrazione di Pedemontana ha preso atto che le banche del pool hanno rifiutato di eseguire un finanziamento di 400 milioni per questo progetto. Inoltre, nonostante le promesse più volte espresse dal governo, il piano economico finanziario di Pedemontana, lavoro che occupa ben 3.300 persone, non è ancora stato approvato dal CIPE. E ad oggi, afferma il CDA di Pedemontana, non è ancora stata assicurata la provvista finanziaria di circa 170 milioni necessaria, insieme all'incremento del contributo pubblico dal 35 all'80% anche sulla tratta B1, per ultimare la variante Expo entro 30 aprile 2015. Alla fine, in poco più di una settimana, lo spazio di una mediazione di provvedimenti concreti è molto stretto e si sta lavorando con un incontro in regione tra i vertici di Pedemontana e Concessioni Autostradali Lombarde per approfondire i problemi che hanno impedito alla concessionaria CAL, anche per la mancata autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, di procedere all'erogazione ieri dei contributi già approvati. Se si ripartirà, comunque, i tempi rischiano di dilatarsi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Disoccupazione, nuovo picco dal 77, siamo al 13%. La riforma del Senato continua a dividere il Partito Democratico, Forza Italia contraria ai 21 senatori nominati dal Colle. Draghi parla di una ripresa modesta in Europa, l'Eurogruppo dà il via libera a nuovi aiuti per la Grecia. Sarebbe morto lo storico francese Jacques Le Goff, forse il più grande tra gli studiosi del Medioevo. È il momento della borsa. Borse in diretta. È una giornata positiva anche quella di oggi, più 0,63% sul FTSE MIB, altrettanto sul FTSE All Share. Francoforte guadagna lo 0,6%, quindi siamo più o meno sulla stessa linea. Parigi più 0,80%, Londra mezzo punto percentuale. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai i mercati vanno bene oggi? Ma oggi, a sostegno dei listini, sono arrivati dati sostanzialmente positivi sull'andamento del settore manifatturiero a marzo. L'indice PMI manifatturiero nella zona euro si è confermato in espansione, sebbene abbia leggermente rallentato il passo rispetto a febbraio. Il mercato ha preferito valutare questo dato rispetto al dato sulla disoccupazione, che si conferma su livelli elevati, come anticipavate, all'11,9% nell'eurozona, al 13% in Italia. Bene anche in Italia invece l'indice PMI manifatturiero, che è migliorato. Bene Mediaset, più 5,17%. Sì, Mediaset in forte rialzo, per accendere i riflettori sulle azioni del Biscione, un report favorevole di JP Morgan. La banca d'affari ha alzato il target di prezzo a 5,9 euro dai precedenti 4,3, consigliando di sovrappesare le azioni in portafoglio. Ebbene, anche complessivamente i bancari: Monte dei Paschi più 5,17, Ubibanca più 2,19, Intesa San Paolo più 2,11%. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E saluto Giancarlo Aragona, diplomatico, presidente dell'ISPI, è stato ambasciatore a Mosca e a Londra. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a voi. Allora, l'abbiamo chiamata per parlare di due elementi. Innanzitutto questa visita del Presidente del Consiglio a Londra, ne vogliamo parlare proprio perché lei è stato ambasciatore a Londra, e capire che significato ha. E poi vorrei parlare anche di Ucraina, perché stanno nel frattempo arrivando degli aggiornamenti importanti su temi dei quali tra l'altro lei si è occupato, perché stiamo parlando di questioni che riguardano la NATO e il ruolo della NATO. Però partirei dalla visita di Renzi a Londra, ambasciatore. Ma guardi, per giudicare ovviamente bisogna aspettare i risultati del colloquio tra il Presidente del Consiglio e Cameron, però credo che si possa dire sin d'ora che le aspettative sono elevate. Renzi è un leader che chiaramente incuriosisce gli inglesi e cui può piacere, ha le caratteristiche per piacere agli inglesi, a Cameron e forse sarebbe piaciuto ancora di più a Blair. E, dall'altra parte a Renzi interessa molto conoscere e stabilire un rapporto con un primo ministro che è fuori dell'area dell'euro e che ha verso l'Europa un approccio che non è l'approccio ortodosso. E quindi c'è un interesse reciproco, credo, ma per giudicare bisognerà ovviamente aspettare i risultati. Vedremo i risultati, vedremo che cosa succederà. Lei citava Blair, tra l'altro non si sa ancora se i due, Renzi e Blair, si incontreranno, perché Blair a quanto pare ieri era in Egitto, quindi non abbiamo ancora certezza da questo punto di vista. La vorrei portare sul tema dell'Ucraina. Lei, come si diceva, tra l'altro è stato ambasciatore anche a Mosca, si è occupato anche della riforma della NATO, tra l'altro, e vorrei chiederle un commento su, come dire, la tensione che a quanto pare si continua a respirare. Sono dichiarazioni che arrivano proprio in questi minuti dalla stessa NATO, che dice innanzitutto faremo passi contro ogni tipo di minaccia, e aggiunge che non può confermare il ritiro delle truppe russe del quale si era parlato dai confini con l'Ucraina. Vorrei capire come legge lei la situazione, ambasciatore. La situazione è obiettivamente seria. La crisi ucraina è una crisi di notevole portata e che quindi ci deve impensierire. Le prese di posizione della NATO sono naturali, sono normali. La NATO in un momento... Cioè quasi scontate, quasi scontate, dice lei, ambasciatore, no? Scontate. Io mi attenderei, mi sarei atteso, e quindi non sono sorpreso dal fatto che la NATO riaffermi il proprio compito di tutelare i paesi membri. Quindi in un momento di tensione nell'Europa centro-orientale la NATO rassicura i paesi baltici, rassicura la Polonia, cioè i paesi che più sono esposti verso l'area di crisi. E poi è diverso il discorso della posizione, dell'atteggiamento russo verso l'Ucraina. Lì la NATO non conferma il ritiro delle forze militari russe, evidentemente lo fa perché ha degli elementi per poterlo dire. Un'ultima domanda le voglio fare, che abbiamo rivolto anche a molti altri analisti di fatti internazionali che abbiamo ospitato. Vede un rischio di estensione di questo conflitto? Guardi, I rischi ci sono sempre, perché situazioni come queste possono sfuggire al controllo. La mia impressione è che gli americani e i russi si stiano parlando, credo che stiano già emergendo i punti controversi, ma che sono i punti su cui mi immagino stiano negoziando, cioè la natura del federalismo ucraino preteso da Mosca e naturalmente le garanzie che gli ucraini e gli americani, che in questo momento negoziano per conto del governo di Kiev, che le garanzie che poi insomma anche la Russia dovrà dare. Non dimentichiamo che già nel 94 la Russia aveva offerto delle garanzie sulla integrità territoriale dell'Ucraina, e questa integrità con l'annessione della Crimea è venuta meno, anche sì, se la Crimea è un caso un po' particolare. Naturalmente. È un negoziato complesso, però senza escludere che possa precipitare, ma insomma io credo che in questo momento sia piuttosto il negoziato che sia in corso, e poi vedremo adesso come andrà, è molto complicato ed è incerto. Grazie, grazie a Giancarlo Aragona, che è diplomatico, è presidente dell'ISPI, è stato ambasciatore a Mosca e a Londra, per averci aiutato a capire un attimo come gira la situazione anche in Ucraina. Chiedo se abbiamo il prossimo ospite. No, non ce l'abbiamo, abbiamo dei problemi. Facciamo una cosa, andiamo subito col nostro viaggio all'Aquila, che ci si prepara a ricordare i 5 anni dal terremoto nella giornata di domenica. Che punto è il progetto di cui si sta occupando? Non hanno ancora preso in considerazione la pratica. In fila all'ufficio speciale ricostruzione, questa signora fa fatica a credere che il futuro stia davvero nelle sue mani, come recita un manifesto qui alle pareti. Piuttosto, a 5 anni dal terremoto, il futuro sembra stare nel numero della pratica nella graduatoria per la casa, una di quelle presentate nel lontano 2010, una delle 4.500 esaminate in queste stanze a prodo della rabbia degli aquilani, mitigata solo dalle ultime mappe con l'aumento dei cantieri. Lì Paolo Aielli, inviato nel 2013 dal governo, legge il futuro prossimo della città. Questo terremoto costerà tra i 17 e i 18 miliardi, noi stiamo ricostruendo e facendo per la prima volta anche tutte le reti tecnologiche, saranno gestite da un unico sistema infrastrutturale, penso sia un caso unico in Italia. L'anomalia è che noi appunto nell'aprile 2013 abbiamo ricevuto 3.000 progetti vecchi arretrati. I furbetti sono in agguato anche qui e talvolta le richieste di risarcimento sono state abbassate fino al 40%. Laddove il tetto di spesa per 600 euro, ci sono stati presentati progetti con richieste che andavano anche oltre 1000 euro. Le volumetrie sono aumentate di dismisura. L'Aquila non vuole essere una nuova Pompei e nemmeno come l'Irpinia, ma il rischio c'è stato, avverte Alberto Cherubini, capo dell'area tecnica, che dall'80 in poi di terremoti ne ha visti tanti. C'è stato un po' il rischio che anche all'Aquila ci fosse una ricostruzione selvaggia. Sono state anche bloccate molte di queste iniziative, però la tendenza c'è stata. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. E per chiudere in pochi minuti una bella notizia, ossia che i famosi dati OCSE e PISA, che ci vedono sempre in ritardo come studenti italiani, ci rivelano oggi qualcosa di nuovo e di bello. Per la specifica capacità di risolvere problemi di ordine pratico siamo ai primi posti in Europa, e addirittura per quanto riguarda gli studenti del nord-ovest siamo all'ottavo posto della classifica mondiale. Saluto Ivan Lobello, vicepresidente per l'education di Confindustria. Buongiorno. Buongiorno a voi. E mi scuso per lo scarso tempo che abbiamo, ma siamo quasi in chiusura, però volevamo un commento da lei, perché insomma finalmente questi dati, che di solito ci tirano mazzate, finalmente ci danno una bella notizia. No, come ha detto lei, una bella notizia che dimostra come i nostri ragazzi, quando si confrontano con la vita reale, riescono ad avere dei risultati estremamente importanti, ma lo dicono i tanti che vanno fuori all'estero e trovano i nostri italiani tra i più bravi in